Hadith numero 26 da Abu Huraira, che Allah si compiaccia di lui, disse: disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ogni falange delle dita degli uomini ha il dovere di una elargizione in beneficenza ogni giorno in cui spunta il sole. Tratti con imparzialità tra due persone e ciò ha il valore di una elargizione in beneficenza. Aiuti l'uomo a montare in groppa alla sua bestia o a caricare su essa la sua roba, ha il valore di un'elargizione in beneficenza. Ogni parola buona ha il valore di una elargizione in beneficenza. Ogni passo che tu fai per andare a compiere il rito d'adorazione ha il valore di una elargizione in beneficenza, e togli un ingombro dalla strada e questo ha il valore di una beneficenza. L'hanno riferito l'imam al-Bukhari e l'imam Muslim. L'espressione elargizione in beneficenza traduce la parola del testo sadaqah.